Di nuovo in diretta con la piazza, dunque, ancora a Porta Pia, no? Sì, ancora a Porta Pia, scusate, dei problemi di collegamento, la batteria di un telefono non funziona, ci sono stati un po' di momenti di tensione quando la piazza ha tentato di passare a Porta Pia, c'è stato lo schieramento delle forze dell'ordine. In questo momento la situazione di tensione si è calmata, la manifestazione sembra che si stia dirigendo verso... no, non sembra, in realtà la polizia è determinata a tenere chiusa la piazza a Porta Pia, perché prima si cercava di passare sulla destra della porta e si sono schierati polizia e carabinieri, adesso si cercava di andare verso via del Policlinico e si sono rischierati di nuovo, e quindi la determinazione è a non far uscire i manifestanti dal piazzale, per cui noi non possiamo far altro, si muovono i blindati intorno a noi. La situazione non è particolarmente tesa, però c'è evidentemente la volontà di non far muovere la manifestazione, o forse no, mi sbaglio io? Beh, insomma, manteniamo l'attenzione anche perché ricordiamo che comunque questo è l'unico mezzo di comunicazione che i movimenti Lotta per la Casa hanno avuto con le istituzioni, perché ricordavamo appunto il percorso dal 19 ottobre al 31, che appunto non era stato inventato, no? C'era stata una proposta anche dalle istituzioni che, insomma, dopo aver sorriso, poi comunque hanno ritrasformato i dialoghi in forze dell'ordine vestite tutte uguali. Infatti proprio quel giorno, il 31, tornando indietro con di nulla osta, allora, diciamo. Apparentemente, scusami, sento poco, però apparentemente si sta disponendo la polizia per far procedere il corteo su viale del Policlinico. Okay. Siccome la manifestazione era annunciata per andare a via del Tritone, cioè laddove poi c'erano stati i problemi che hanno causato gli arresti, io non credo che, insomma, la strada più diretta per via del Tritone era andare dritti da Porta Pia per via 20 settembre. Esatto. E evidentemente questo non è possibile. I compagni sono un numero significativo, però l'appello è a continuare a confluire adesso a Porta Pia e poi verso via del Policlinico. Noi vi aggiorneremo con la manifestazione mano a mano che va avanti, sperando di riuscire a ricaricare questo stramaledetto telefono. Se avete altri contatti che stanno in piazza, comunque utilizzateli. Sì, sì. Adesso, per adesso è tutto, la situazione si è decisamente tranquillizzata da un punto quindi di diciamo che possiamo dire che il corteo è partito verso via del Policlinico? Diciamo che è proprio in direzione di partire, ancora non è partito, si è disposto per partire. Perfetto, allora diciamo che questa la daremo, insomma, come indicazione per tornare a invitare. È un segnale di divieto questo, non so se l'avete capito, nel senso che certo. Al tentativo di fare la strada più breve via 20 settembre è un segnale di divieto. Esatto, è un respingimento comunque, non è da viale del Policlinico diciamo che si arriva a via del Tritone. Mettiamola così, sarebbe il caso che tanti e tante compagni e compagne si svegliassero un attimo e confluissero anche qui in piazza, perché più siamo e più è difficile per il dispositivo di ordine pubblico decidere che percorso fare. Ecco. Perfetto, allora se tu pensi che possiamo finire qua, io attacco il telefono, però sì. Appunto, dimmelo tu. Per adesso poi vi faccio avere in privato un telefono, va bene? Va benissimo, grazie. D'accordo. Ciao. Ciao. E allora, appunto, come tentavo di dire, ma giustamente qua poi siamo alle dipendenze anche delle batterie di sti mostri, appunto dicevamo, perché lo vediamo come respingimento, perché non è da via del Policlinico che si arriva a via del Tritone, e questo ci fa capire che appunto probabilmente si è posta questa come barriera. Dopodiché tra brevissimo, appunto, visto il clima con cui il compagno ci ha lasciato, richiameremo la piazza. Intanto io torno a ricordarvi che c'è bisogno proprio probabilmente che siamo ancora più solidali e determinanti nell'appoggio a chi sta lì e rappresenta l'emergenza casa, che direi tocca un po' tutti, perché l'emergenza casa non è sicuramente solo di chi una casa non ce l'ha, sicuramente è più emergenza, ma anche chi ha deciso di pagarla è come avere un po' un cappietto al collo. Detto questo, io vi rimando un po' di musica, tra brevissimo torniamo in diretta con la piazza.